potuto dare nei centri sociali. E quindi sono un po' visionario, cioè faccio dei discorsi che sono discorsi che magari vanno a parare chissà dove, magari fermatevi voi, dico delle cazzate magari, bloccatemi e fatemi una domanda su quello che magari avevo detto 5 minuti prima che poi me lo sono perso. Insomma, le conferenze che faccio sono conferenze che io spero che siano minimamente coinvolgenti anche per voi, infatti mi piace tante volte farle in tondo, che preferisco, e in qualche maniera cerchiamo di arrivare, partendo dalla storia avvenuta 30 anni fa a Milano, arrivare anche a parlare un po' del momento storico, anche perché il periodo narrato con i Pirati dei Navigli è il periodo che va dal 1984 al 1989, che per quanto riguarda la storia dei movimenti era un periodo di grande riflusso, si diceva. Soprattutto a Milano c'era la Milano da bere, ricordate, quindi era un periodo che in quel momento ci sembrava che era finito tutto, un po' come adesso. Allora si tenta di tirare un filo dal passato fino ad arrivare adesso, anche perché la situazione non è poi così diversa. Allora c'era un principio di disgregazione forte, anche se non c'era la guerra come c'è adesso, ma quel stesso principio di disgregazione lo stiamo vivendo adesso. A grandi linee, questo qui è il percorso che vi farò, partendo dal racconto di una storia specifica che mi è venuto come uno dei testimoni, ecco, di un periodo storico che, a differenza di quello che è avvenuto dopo l'89, dopo la Pantera, con l'esplosione dei centri sociali, poi c'è tanta letteratura, ma a differenza chiaramente degli anni 70, che era la letteratura infinita sugli anni 70, anche nella prima metà degli anni 80 con il punk, dicevamo appunto, col punk era uscito per Equilibri. Stranamente, in un periodo così vivido della storia dei movimenti dal punto di vista dell'underground, del sotterraneo, sono stati in quel periodo tirate fuori delle idee, delle pratiche, delle teorie che sono diventate importantissime proprio per lo sviluppo dei centri sociali nel periodo di loro maggiore espansione, che sono stati gli anni 90, dove l'esperienza del Bruno arriva dagli anni 80 più o meno. No, qua c'è una storia che si sposta da Rovereto a Trento all'inizio del 2000. Negli anni 90, bene o male, c'è questa esplosione dei centri sociali un po' dappertutto, cioè si va da Casarano a Rovereto, da Udine oltre a Imperia, cioè anche non ovviamente solo una storia metropolitana, anche una storia locale. Però la questione di come si sviluppa Trento si sviluppa intorno alla generazione di Genova. Questo è un po' il punto di partenza, di ripartenza dell'esperienza trentina. Sì, insomma, negli anni 90 c'è stato veramente un proliferare di centri sociali sia in città che nelle province, e bene o male tutte le parole d'ordine sono state progettate proprio in quel periodo che narro io in Pirati dei Navigli, dall'84 all'89. Tenetevi in testa bene questa storia, questo periodo, perché è quello che io ho tentato di fare con questo libro. Questo libro è il continuo del mio primo, che si chiama Costretti a sanguinare. Costretti a sanguinare era più o meno dal 77 all'84. Io nel 77 avevo 15 anni e ho incominciato a, diciamo, un minimo di consapevolezza politica proprio in quel periodo, 1977. Io vengo, figuratevi, io vengo da una famiglia cattolica, sono entrato nel settembre 1976 in un istituto chimico di provincia, perché mio padre lavorava nel settore chimico, figlio unico, figlio maschio, ho due sorelle, e quindi io dovevo fare quello che aveva fatto mio padre. Però a me della chimica non mi frega un cazzo, però sono stato costretto a 14 anni, non è che non potevo scegliere, e vado in questo istituto tecnico in periferia a Milano, tutti maschi, e era il settembre 1976 e c'era autogestione, picchetti per non entrare alla lezione normale, c'erano occupazioni in continuazione, la scuola era una scuola tipo universitaria, che ognuno doveva fare quello che voleva, io infatti la chimica non l'ho proprio fatta, ma mi sono già appassionato lì in quel periodo, 14-15 anni, di letteratura sostanzialmente, di storia italiana in quel momento. Venivo appunto da una famiglia cattolica, facevo il Boy Scout fino a 3 mesi prima, e nel giro di una settimana ho fatto 3 cortei tesissimi con la polizia, cosa. Mi sono fatto un sacco di canne che non ho mai fatto, mi sono fatto pure un trip, ho fatto l'amore per la prima volta nella sala, nell'assemblea, con una studentessa che andava nel liceo di fianco, che c'erano un po' di donne, e quindi io vengo fuori, cioè, da una situazione, come dice il mio amico Duca, il mio grande amico Duca di Roma, ho pucciato nel piatto degli anni 70 in qualche maniera, e quindi sono qui anche come testimone di portare in qualche maniera tutto il percorso rivoluzionario e tutte le teorie che si erano sviluppate negli anni 70 in un ambiente che è cambiato completamente, siamo nel 2025. Ecco, quindi questa è un po' una premessa. Costretto a sanguinare, parlava, il libro inizia con una specie di piccolo riassunto di Costretto a sanguinare, parla di un periodo storico che è un periodo di grande sconfitta dei movimenti, perché nel 77, dopo due o tre anni che io facevo questa vita da paese dei balocchi, perché ero paese dei balocchi e studiavo soltanto una cosa che non c'entrava niente con la chimica, e poi è arrivato il rapimento di Aldo Moro, la scuola è cambiata da così a così, c'era il preside nostro che era rintanato nella sua presidenza, e poi da un giorno all'altro è tornato fuori come uno sbirro malefico. Nella mia classe eravamo tipo 32 solo maschi, dalle periferie di la gente che andava a fare anche scontri, tutta attività politica, nel giro di 6 mesi sono diventati tutti tossicodipendenti. Ah. In 32 sono rimasti una decina in classe, perché tutti si dice che poi negli 60 sono stati gli anni di piombo, ma in realtà nelle periferie milanesi la situazione è stata questa. Io mi sono salvato perché sono andato a Londra in autostop e sono tornato punk, sostanzialmente. Il punk, adesso rispondo anche alla sua domanda, il punk è un dispositivo, è stato un dispositivo il punk, un dispositivo che alcuni ragazzi, ragazzini di periferia avevano ormai sicuri anche nella loro inconsapevolezza, che non avrebbero fatto la storia, la vita che avevano fatto i nostri genitori in una welfare, in un rapporto tra lavoratori e padroni che c'era un certo equilibrio, e questo equilibrio era saltato qui alla fine degli anni 70 sostanzialmente. Quindi il grido No Future era un grido che aveva un senso sociale ben definito. Non avremo più quello in futuro. Il nostro futuro sarà quello di adesso, ma non a caso, che siamo tutti precari, siamo tutti... sono precari anche quelli che non sono precari. Cioè, il passaggio comunque dal fordismo al post-fordismo, la grande fabbrica, la fabbrica sul territorio. Timbravamo il cartellino, i nostri genitori timbravano il cartellino, noi avevamo già in testa il telefonino, che è sempre acceso. Il punk, appunto, no future, era anche un rifiutare tutte le convenzioni sociali e civili ben definite, quindi via dalla famiglia, via dalla scuola, infatti anche io me ne sono andato via dalla scuola, nessun tipo di lavoro, e cercavamo di vivere in una bolla di autoreferenzialità dovuta anche alla nostra attitudine molto radicale, da quello che ascoltavamo, da come ci vestivamo, da come mangiavamo, che eravamo già tutti vegetariani. Il punk poi dopo si rivolta come una calzina, dopo la prima botta del No Future, c'è cioè il rifiuto totale, dove su 100 ragazzi e ragazzine delle periferie che hanno fatto la scelta del No Future se ne rimane nemmeno il 20%, quel 20% del punk si diventa un'altra cosa, appunto il do it yourself è la chiave per riuscire a resistere, a fare almeno un tentativo di testuggine tra di noi. Il gruppo musicale era il simbolo, perché una volta si diceva non sapevo suonare, chi se ne frega di suonare, proviamo a suonare, e anche se esce solo rumore. Anch'io in effetti, in costante sanguinario, lo racconto, ho un gruppo musicale, però canto perché non ho assolutamente nessun tipo di capacità di andare a tempo, e quindi appunto ero appassionato di letteratura, leggevo sempre tanto, e quindi faccio cantante. Quindi i testi erano molto belli, ma poi cantare non ero capace. Dopo 2 o 3 mesi il bassista, il batterista, mi disse filo patto vai fuori tempo. E quindi insomma io ero un po' depresso. Questa cosa qua. Però il punk aveva anche altro, insomma, soprattutto aveva le panizine, lì che comincio a scrivere io, a appassionarmi alla scrittura, che diventando poi lo scrivacchino del mio gruppo, che in qualche maniera faceva volantini e queste robe qua. Perché il punk nel do it yourself diventa un'altra cosa. E noi soprattutto, grazie ai contatti che abbiamo con gli anarchici storici del Ponte della Risolfa e con gli anarchici più hippie in una casa occupata che era in via Correggio 18, riusciamo ad aprire un posto che si chiamava Virus, e il Virus è il primo centro sociale che nasce, che ha come sostanzialmente ha un'assemblea, l'autogestione. I gruppi musicali, i concerti sono quelli che servono per finanziare l'attività, e l'assemblea è l'assemblea quella che è per principio autogestionaria, che noi impariamo un po' dagli anarchici e da questi hippie che vivono in questa casa. Alle spalle di questa casa c'erano 2 capannoni in disuso, e noi eravamo nel punk, giravamo a fare anche l'Europa in autostop, e appena trovavi un punk a Stoccarda, più che altro eri già la casa, il posto dove andare a dire il fumo e da dormire. E quindi c'è un principio di sprovincializzazione, e quindi riportiamo quello che vediamo soprattutto a Berlino, ad Amsterdam e a Londra soprattutto, lo riportiamo in Italia. In Italia è un ambiente che è vero che ormai il movimento era in una situazione di grande repressione, però anche è vero che c'erano dei luoghi, spazi liberati, come appunto via Correggio, appunto questi capannoni, e nasce il Virus. Il Virus lo racconto bene in Costretta Sanguinare, e siamo un gruppo di una centinaia di ragazzini, io ero più grande, ero. Il Virus dura da quando io ho 19 anni fino ai 22 anni. Quindi erano uno dei più grandi, però facevamo concerti che venivano punk, perché si era sparsa la voce che c'era un posto veramente punk che non aveva nessun tipo di padrone ed era gestito completamente da punk. Quindi arrivavano gruppi da tutta Europa, addirittura dal Canada, i D.O.A., che era un gruppo che a noi era il nostro mito. Una volta ci hanno bussato alla porta dove abitavamo, perché la casa occupata era davanti noi avevamo noi punk con i hippie di una volta, e dietro appunto c'era il virus, quindi ci abbiamo suonato, fatto suonare, avevano un gruppo, avevano un giorno libero e ne sono venuti apposta al virus per suonare, quindi c'erano concertoni enormi che venivano anche cinquantenni, sessantenni, ma noi eravamo ragazzini proprio giovanissimi a gestire tutto quanto. La storia finisce del virus nel 1984, nel maggio, e la nostra aggregazione, che faticosamente si era messa insieme, si disgrega. E è lì che parte i pirati dei navigli. Infatti qua si ragiona su quello che succede dopo, no? Cioè, la dimensione effettiva del virus, io ho memoria effettiva di giro roveretano che comunque scendeva, perché comunque c'era un giro appunto punk roveretano, e c'è poi uno sviluppo che ragiona anche in termini non proprio così fortuiti, perché comunque il quartiere ticinese, per cui il quartiere ticinese è il vecchio porto di Milano, ovvero un porto che non ha più ragione di essere porto, perché il futuro è andato da un'altra parte, che però mantiene ancora quell'habitat là, quella struttura là, in quegli anni là era ancora quella roba là, con un'eredità degli anni 70 enorme. Negli anni 70 nel ticinese c'erano le sedi anche delle minuscole frazioni dell'estrema sinistra, aveva una propria sede, perché comunque al ticinese c'erano tutti, e tra questi tutti c'è anche un libraio. Sì, diciamo che è la storia poi alla fine di un incrocio che... Sì, diciamo che ha fatto questa premessa che il punk, anche per rispondere un po' alla tua domanda, no? Perché siamo eredi di Debord, o siamo debordiani, diciamo, i punk sono dei ragazzini di periferia o di provincia che hanno delle inquietudini dentro, appunto devono attraversare il deserto del no future prima di arrivare al meet yourself. Guardate bene, io tante volte mi stupisco, perché il punk ha un andamento molto carsico, no? Perché magari si affossa per 4 anni e poi dopo lo salta fuori. In questo periodo, almeno a Milano, mi chiamano stato di ragazzini giovani, perché devo parlare del punk, e anche nel centro sociale Conchetta, che poi è la storia vera di questo libro, il centro sociale Cox 18, praticamente ormai una volta alla settimana sono gruppi di ragazzini che fanno punk, quindi è un periodo storico, forse anche dovuto al momento drammatico che stiamo vivendo, che nelle periferie c'è talmente tanto malessere che il punk è ancora un buon dispositivo. Quindi questo qui è più che The Board, che già io per capire The Board a 30 anni ho cominciato a capire qualcosina, poi ancora adesso non lo capisco, quindi direi che queste collegamenti intellettuali non ci sono, anche se è vero per carità. Vivian Westwood e Malcolm McLaren avevano sicuramente studiato The Board, sicuramente loro venivano dai gruppi situazionisti dell'epoca degli anni 70, quindi un collegamento, diciamo, con coloro che poi sono diventati leader del punk c'è, però quando io vengo a fare le conferenze parlo dal punto di vista non tanto dei leader, di quelli che sono entrati nella società dello spettacolo, ma dalla parte del leader. In Trentino si dice la pratica vale più della grammatica. In ogni caso, appunto io venivo dall'esperienza del virus, sono uno scrivacchino, a quel punto non posso più andare all'università perché ho vissuto talmente tanto casino dentro il virus, e vado a finire in una libreria, la libreria è la Calusca di Primo Moroni. Vado a finire lì perché? Perché noi punk in quel momento